Il libro è della casa editrice Declic, che è rappresentata da Carlo Sperduti, che vuole rimanere alle spalle di tutto, però avete la possibilità di andare a conoscere. Se andate da lui, vi parlate e lui vi risponde, vero? Sì, forse. Non sappiamo cosa. Vabbè, però magari un cenno, ecco. Allora, il libro di questa sera lo presenterai da solo, Marco Giovenale, grazie per grazie essere a voi. Qui, e benvenuto a Villa Lice Ledge. E, è un reading, perché sì, sono letture di prose, la prima dell'oggetto. Esatto, ti lascio quindi la parola. Allora, io ti ringrazio moltissimo perché per l'ospitalità, ovviamente, ma poi anche per la bellezza di Villa Lice, che confesso... Beh, non l'ho fatta io, non conoscevo, complimenti, molto bravo. È veramente bella, è un posto molto bello qui leggere, e grazie a voi che ascoltate. Serve e a Carlo. Un proviamo, forse magari può essere comodo. E a Carlo Sperduti, che appunto ha fondato The Click, questa casa editrice che con questo libro arriva, se non ho contato male, al 12° titolo, e grazie. E che ha voluto appunto dedicare appunto uno slot, uno spazio del suo programma editoriale a questo testo qui. Vengo subito al dunque e dico, il libro si intitola Prima dell'oggetto, e il motivo è duplice. Intanto perché c'è uscito l'anno scorso questo libro che si intitola Oggettistica, per un'altra casa editrice che si chiama TIC, che è un libro lungamente meditato tra il 2013 e il 2023, e raccoglie una serie di prose molto particolari che fanno propria una linea di scrittura, diciamo, che latamente si integra, si inserisce nell'ambito delle scritture di ricerca, e che fanno un poco riferimento al lavoro di autori statunitensi come per esempio Ron Silliman, Charles Bernstein e altri, che negli anni 70 teorizzavano una frase nuova, e quindi in realtà poi prendendo anche molto spunto da ambiti francesi, autori straordinari che sono stati tradotti da Michele Zaffarano come Nathalie Cantano o Christophe Tarkos, svolge un lavoro di prosa in prosa. Prosa in prosa, prose en prose, è un'espressione coniata dal poeta e teorico, studioso soprattutto di Francis Ponge, Jean-Marie Glaise, che appunto vuole indicare una testualità che non fa riferimento né a ciò che immaginiamo possa essere poesia, e quindi connotabile secondo certi criteri, certe marche stilistiche, né di fatto racconto, quindi non è neanche narrativa. È un po' di tempo che io sostanzialmente lavoro su questo fronte qui, cioè su un fronte di prosa in prosa, su un fronte di ricerca letteraria intesa in questo senso. Quindi Prima dell'oggetto, una sua prima accezione è proprio questo, il fatto di venire prima di oggettistica, perché lavora su dei testi che erano addirittura precedenti e che avevano anche una architettura in alcuni casi estremamente legata ad alcune fissazioni narrative specifiche. E però le complica, o meglio, le, diciamo, come Carmelo Bene diceva, di stare in scena cercando sempre di farsi lo sgambetto, cercando sempre di evitare quella facilità, quella linearità che fa sì che l'autore, ritenendosi autore con la maiuscola, e adesso mi rendo conto che ho il microfono, parlo, quindi sono in qualche maniera autorevole, ma vi posso assicurare che all'interno di questi testi c'è molta più incertezza, c'è molta meno diciamo egoità di quella che gioco forza uno deve esprimere quando prende un microfono in mano. E quindi l'idea è quella proprio di non convocare il lettore, di non dare appuntamento al lettore in un punto, in un posto dove tutti sanno che si deliba prosa narrativa, prosa di romanzo, eccetera, ma scompaginare un po' le carte. Non so se ci sono riuscito, il testo è estremamente diverso dalle prose di oggettistica, proprio perché lavora su delle microstrutture o racconti brevissimi che hanno addirittura alcuni di questi origine più di 20 anni fa, perché l'arco temporale in cui della scelta di questi testi è 2004-2024. ma in realtà poi in un sottotitolo che sta nel conto frontespizio c'è scritto ma forse anche prima e dopo, perché c'è qualche elemento precedente e successivo. Il sottotitolo di prima dell'oggetto è prima dell'oggetto e contro le frasi, e quindi l'idea è quella di andare contro una certa idea di frase, cioè un'idea di frase concepita per far funzionare tutto in maniera perfettamente oliata, condurre il lettore là dove il lettore sa già che si produce il senso, e invece cercare di appunto crearsi degli inciampi e inciampando tendere la mano al lettore perché inciampi anche lui, non mi tiri su. Ulteriore sottotitolo, io sono un appassionato di sottotitoli, del prima dell'oggetto e contro le frasi è aggregatore, installazioni, pieghe LED, strumenti slavi, Roma, narresidui. Non sto a spiegare tutto quanto perché poi magari leggo, che forse è la cosa migliore, ma questi narresidui sono appunto dei residui narrativi che appunto riemergono da un passato a cui ho fatto lo sgambetto. Inizio subito dalla seconda parte del libro, perché paradossalmente la parte più disgregata e meno, diciamo, più vicina a un'idea di smaterializzazione del percorso narrativo è la prima. Quindi il lettore si trova già subito in media stress, si trova nei guai dalla prima pagina, mentre la seconda parte è un po' più tranquillizzante, almeno sembra. Una delle altre idee che stanno dietro questo libro, ma lo dirò dopo, è debitrice probabilmente della cinematografia, ma questo da sempre, e non lo dico perché è morto recentemente, ma di fatto è, diciamo, uno degli elementi della costruzione dell'immaginario di una persona della mia età, tutta la filmografia di David Lynch, soprattutto gli ultimi film. Ma vado subito a leggere e parto appunto da una parte più appunto narrativa. Leggo però l'epigrafe del libro, un'epigrafe che appunto io ho scoperto negli anni 90 e che è in realtà citata in un saggio, non ricordo esattamente quale, ma uno dei saggi che stanno nel libro celeberrimo di Walter Benjamin, l'opera d'arte nell'epoca della sua riproducibilità tecnica. Voi sapete che in quel libro, nell'edizione Naudi, c'erano insieme anche altri testi, una piccola storia della fotografia e altre cose ancora. In uno di questi testi c'è questa citazione di Henry Luce, che è autore di un prospetto per la rivista Life, un prospetto che lui ha redatto nel 1934, e nell'immaginare questa rivista, quindi è un accumulo di cose, anche qui l'idea del prendere da più parti e quindi del fare una sorta di satura, l'anx è alla base di questo tipo di immaginario. Questo testo dice così: esaminare tutte quelle cose strane che sono le macchine, gli eserciti, le folle, intuire le ombre della giungla e della luna, osservare l'uomo che lavora, i suoi quadri, i suoi monumenti, le sue scoperte, cogliere a distanza di migliaia di chilometri le cose nascoste, chiuse dietro i muri, pericolose. Come vedete è quasi una sorta di micro racconto, in realtà è un prospetto, progetto che diventa anche per certi aspetti un po' inquietante. Uno dei temi ossessivi della scrittura di cui parla è la casa, e la casa come realtà che si disfa, che si sgretola, che perde unità, casa intesa sia come riparo, sia come rifugio, quindi, ma anche come prigione, e casa intesa anche come focolare domestico, quindi con tutto ciò che riguarda i rapporti con i familiari. E c'è questo gioco del titolo di questo testo, che è il libro a pagina 45, che gioca appunto con la prossimità fonica di domus e doom, destino, maledizione per certi aspetti, domus, doom. Inizia con un punto il testo, quindi un punto e poi un corsivo. Non butta niente via qui, dice dopo. Il fondo dei barattoli, il retro di busta e la scatola frustata dalle barre di veneziane, ogni dito di carta semilibero coperto dopo di conti o testo, confessano trasporto opaco, si direbbe pure questo rilchiano, per il vuoto di incuria, un affetto agli oggetti, assenti assurdi, un gocciare o guttiare di animismo domestico, dimentico. Neanche questo forma il precipitato, i guai in tutti i casi, né il verde, ma spelato, del balcone, dal balcone dei vicini. Non ci sono certi medicinali nell'armadio. Si inaugura luglio, si aspetta la valuta di un assegno. La madre ha coperto con del suolo uno specchio perché non prenda polvere, è lugubre in terra. Il tumo che lo teneva, puff, andato. Viene da riderci su, sopra, si fissa a un chiodo battuto, il brutto piattone di rame sbalzato da Puzzo e rilievi illeggibili di illeggibili tauromachie cromagnon. Il lutto splende fuori dalle tasche e dentro. Più avanti, in corridoio, c'è San Giovannino che beve alla fonte, dipinto rifoderato, copia di qualche perduto sotto leonardesco, da immaginare fatta nel 600. È della famiglia, sta cadendo a pezzi, il soggetto è doppio. Intenzionalmente, con la vendita del quadro a un basso profilo, il padre crede tirare a campare qualche tratto nel contesto. Contenti in coro, avanza per piccoli frammenti e ha a suo chiarone il crollo, l'ossidazione. Poi tutto si aggiusta, arriva la valuta. San Giovannino continua a bere, salvo. Non so se... tornare sul tema della casa, oppure come probabilmente faccio adesso, anzi lo faccio sicuramente, riferirmi ad alcune esperienze del periodo in cui ho lavorato in una libreria per una decina d'anni in centro, e questo che sto per raccontare, come vedete si tratta di racconti, nel primo caso non è un racconto, è la descrizione appunto di un ambiente, di un sistema di vettori che portano alla dissipazione di una fortuna familiare. In questo racconto invece l'aspetto narrativo viene più in primo piano e si intitola La A, è l'apostrofo appunto appunto, ed è sostanzialmente un vero e proprio racconto, ma mi permette di introdurre il discorso della microstruttura di questi testi. Dopo un mese o due di distrazione, l'ingegnere dell'associazione Armati viene con suo piglio speciale a ritirare i volumetti che ha fatto mettere da parte. Si fatica parecchio a ripescarli, l'impaziente non tollera attesa, poi agguantati gli oggetti non li vuole pagare. Contrattato a lungo, molla contro voglia, oro a fiumi, smette infine di avere fretta e decide di restare in libreria. Assistono una ragazza orientale di linee garbate, non alta, 20 o 30 anni più giovane di lui, e un bambino in braccio a quella. Lui non sopporta che il bambino non voglia camminare, che stia in seno alla madre, gli intima di scendere. Lui volta la testa e si nasconde nella piega del braccio della donna. Allarmato, non va, rivolta disubbidienza. Prende il citto e senza che lei possa opporsi lo strascina verso terra. Impallati entrambi, l'alfa accomoda assai brusco il piccolo in su e in giù, lo dondola coi palmoni per tenerlo in piedi. Eretto che stia, l'edipizzato, niente, chiaramente non ha la minima, proprio minima intenzione di starci, quindi si arrovescia in pianto. L'armato assiste senza chiosa, dov'è chiara lettera non fare oscura glosa. Punge, inzicchia e stride, fa un poco di scherno, va verso lo scaffale dei libri per ragazzi, decide cosa piace al piccolo, glielo sottopone, glielo butta in faccia, lo compra insistendo con autorità sullo sconto, escono. Il bambino è tornato in braccio alla madre, Saturno, battezziamolo, celiando, è soddisfatto degli acquisti, della prova di forza, della donna a cui applica verbi, del fructus versaio muto, il filo di rame per la corrente. E qui siamo a uno dei punti che forse spiegano, forse celano in parte il titolo Prima dell'oggetto, perché il testo che vi leggo si intitola Il Prima. È quasi, e così è, che si preparano a smettere. Ritentano, rientrano. Sempre più rallentato, un babbo con lungo foulard cinese infilato nella gola soffoca e i bambini con un filo d'ansia però respirano, felici che non tocchi a loro. Da capo, nelle rigature verticali della pellicola, lo scattino da matrimonio invecchiato impercettibilmente conta, riconta e anche riscontra i pic presi e quelli mancati, il riavvolgimento delle pellicole sacrificate, folder. All'esemplare alunno danno un voto due volte più lusinghiero. Che umiliazione. La luce circolare spiega di che si tratta. Sant'Agnese, in piazza, mela gialla e mela rossa, senza cerimonie, nessuno le offre al signore. Raffica di byte dal telefono di servizio. L'inseguimento non si interrompe, il tipo col fazzoletto in bocca ricorda una pala d'altare, frutto sano, bianco poi, rosso prima, ma tutte queste storie per un po' di prima. Il lavoro è quello proprio sulla prima temporale, quindi il prima del frutto, il prima del morente, e quel prima che è rappresentato dall'infanzia, dai bambini che ricorrono spesso in questi testi. Nel 2004, idea di editoria in PDF era, diciamo, non necessariamente all'avanguardia, ma insomma interessante. E Biagio Cecollaro, uno degli autori importanti del gruppo, concluso 10 anni prima, gruppo 93, mise su nel suo sito un generosissimo spazio per i giovani autori, o neanche tanto giovani come allora ero anch'io, perché pubblicassero lì alcuni dei loro inediti. Uno di questi inediti è appunto il mio, che si intitolava Il Loglosse. Mi è sembrato possibile far rientrare nel discorso del prima anche questi 5 interni. 1. Da dentro l'urna, attraverso l'inclinatura, spia le altre urne. Ride cattivo vedendo lieto che sono inclinate. 2. Di fronte alla stanza del furto, con l'accoltellato in terra, si è formata ressa, ora una fila discreta. Spontaneamente alcune decine di persone dimostrano attenzione, sono in fila per venire derubate e uccise. 3. È nel semibuio, o così si sostiene, le pareti, quanto a immaginarle, ci saranno pure da qualche parte, ma non da qui se ne vede una. Stessa osservazione per il soffitto. La terra c'è invece, questo è sicuro, dato che lui ci si inginocchia sopra. È scuro, non si rialza, sta giù sempre. Se prova è per smettere, ha un inginocchiarsi continuo, smette. Al collo il cappio è morbido. La fune sale, indolente, ma così rilasciata che non viene mai impiccato, nemmeno minacciato. Ha le mani libere e giusto per questo non si toglie la corda dal collo. 4. Distesa, ha un soffitto che la fa rimanere supina, le tocca lo stomaco, la tiene sempre ovunque schiacciata schiena a terra, ma anche qui non ci sono pareti, può strisciare liberamente verso qualsiasi punto cardinale. 5. È il bibliotecario interno della biblioteca interna dell'intestino del topo, anzi ratto, consulta i visceri, conduce le ricerche enterologiche, esamina i costituenti elementi escrementali, archivia direttamente la realtà. Niente ferie, ha prestigio, lo interpellano, vogliono sapere, c'è fame per fortuna di sapere. E questo è un testo che in qualche maniera potrebbe rientrare in queste schegge appena lette. Le terrazze sono troppo alte per vedere chi esattamente stiamo acclamando. Allora, di nuovo un elemento narrativo. Preso? No. Sono venuti a prenderlo sotto le finestre. Nel suo dialetto chiamava la fame, diceva di averla. Era un po' complicato sia da capire sia da gestire. Usano questo verbo, gestire i dirimpettai e il padrone delle finestre. Uno di quelli delle finestre, uno dei padroni, sarei io anche. Perché era seduto lui, non poco affannato, e beveva il suo vino urlando e dormiva distesa sotto le mie, intendo le finestre. Ma a parte urlare, appunto, l'affamato non dava fastidio, però sono venuti lo stesso a prenderlo. Nel prenderlo gli si sgretolava in viso la frase che ripeteva. Tutti i pezzi non erano più un discorso sulla fame, della fame, ma qualcos'altro difficile. E in ogni caso, proprio in assoluto, lui non voleva essere spostato. Alla fine, chiudendo i portelloni e accendendo la sirena, fumavano parlottando sui sedili anteriori, i tre in bianco. Sarà rumeno? Sarà russo? Se lo domandavano, anche italiano può essere, solo che parla stranissimo. Se quello poi è parlare, se puoi dire che parla. All'arrivo all'ospedale, aprendo, esce un gomitolo di echi e nient'altro. Echi italiani, però. Era italiano allora. Come vedete, gli impianti narrativi rimangono. Adesso li sgretoliamo un po', ma ancora una breve narrazione. Questa in particolare è qualcosa di più di oggettistica. Si intitola Andare dallo zio. Vado a prendere le chiavi dalla casa, della casa dallo zio che le ha. Lo zio è sordo. Lo zio è nella casa, lo zio si è chiuso in casa e mangia e beve allegramente. Non sa che sto venendo a prendere le chiavi, non mi aprirà. Non sente il campanello, non apre la porta, non posso entrare, non ho le chiavi, e allo zio, chiuso in casa. Piove e mi bagno. Lui mangia e beve, sarà un'allegoria. Forse anche un'influenza, a tutto c'è soluzione. A volte la soluzione è nelle cose come stanno, già, dunque, sì, è una soluzione, ma sfavorevole per una parte e favorevole per l'altra. La parte che mangia e beve, per l'altra no. Faccio delle frasi, non serve, è perfino peggio. Mi metterò ad aspettare, mica passerà un anno. Passa un anno. Lo sgretolamento dei testi ha a che fare con un meccanismo un po' particolare che io ho riconosciuto dopo, cioè in realtà la riflessione l'ho fatta proprio esattamente in occasione della morte di Lynch, cioè il fatto che, non so se avete presente, alcune scene soprattutto di Inland Empire, più che di altri film, in cui il rallentamento del movimento della macchina è decisamente intenzionato a far crescere la suspense nell'osservatore. E quindi, ma questo succede anche in Strade Perdute, per esempio, con Star Wars. Pensiamo appunto nelle scene delle registrazioni che il protagonista si trova a vedere. E per esempio ci sono in Inland Empire più volte delle scene in cui siamo in visione diretta, stiamo osservando il nostro stesso percorso all'interno di un corridoio e lentissimamente giriamo l'angolo. Sappiamo benissimo che cosa spesso Lynch, non sto a citare una delle scene più famose, anche se non sbaglio di Twin Peaks, che cosa Lynch è capace di nascondere dietro gli angoli, è abbastanza inquietante. E in realtà poi alla fine quello che inquadra è un comodino, cioè ci ha fatto prendere un colpo per nulla. E questa realtà, in verità, a me sembra uno delle modalità più interessanti di lavorare con la microstruttura. Cioè, non soltanto creare degli inciampi, ma creare degli inciampi che in qualche maniera non esaltano l'affezione di un lettore, di scrittore di ricerca per la buona riuscita di un materiale appunto sperimentale, ma che in qualche maniera fanno inciampare anche questo orizzonte d'attesa e quindi lo, tra virgolette, deludono. E quindi è un altro modo, forse, io ho pensato, magari sbaglio, di sottrarsi allo spettacolo della letteratura, che è, io credo, una delle cose peggiori che la letteratura può fare e che fa normalmente e le consente ancora oggi in una società dello spettacolo estremamente avanzata di vendere. Non posso chiosare ogni testo, anche perché vi annoierei mortalmente. Li leggo con la preghiera, per chi acquisterà e leggerà il libro, di credermi sulla parola, di osservare questo funzionamento delle microstrutture, dei momenti di punto, di pausa, di accapo, di parentesi e tutte quelle in realtà modalità di sgretolamento dell'afflusso pseudo-narrativo, che poi narrativo non è, che fanno in modo che appunto il lettore si fermi, abbia un quasi sovrassalto, in realtà poi continui a lavorare nella sua lettura in maniera quasi inavvertita, ma avendo comunque avuto un sobbalzo di altra natura rispetto alla semplice e spettacolarissima sorpresa. Il primo testo del libro si intitola All'osservatorio. Non avrebbero dovuto spostarsi verso l'osservatorio, la gita o il giro li porta comunque lì per motivi non diversi dal fatto che l'angolo di incidenza delle troppe luci perde potere, così da lasciare campo ad alcune matasse, galassie. Per loro erano passati. Passano così quella notte a guardare, fuori dall'osservatorio, le spillette riflettenti sugli abiti che vanno, che furono, che sarebbero stati selciati. Fanno prove per capire si avvertono la prossimità dei custodi, fermissimi ai margini della raduretta verde, quasi nera, spiando in direzione del muro. Così è un inizio di senso della serata, solo nudi, un po' attratti a pezzi, dopo vedono che l'occhio li punta. È ovunque, verso terra soprattutto. A raso. Si vede che i rammendi sono i parassiti delle lacerazioni. Con le zampe incrociate, brevi, semibrevi o a siepi, fitte sulle asole, che dunque asole non sono più. Mentre precisamente a questo, al fatto intero, non c'è modo di mettere sella contorno, non viene possibile immaginare di aggirarla. Se ci si riflette, un nemico che non ha spalle, tallone, eccetera. Se per lo sconforto chiude mezz'ora prima, nessuno se ne accorge, non sono previsti appuntamenti. Però si china, si mette a filo del pavimento con gli occhi fermissimo, al modo psicotico a guardare, stando comunque in negozio, fuori. Fuori dal millimetro di fessura che la serranda lascia ancora schiuso da terra, come cucendo con gli occhi il bel buio dentro e il buon bagliore fuori. Non più in sé né uscendo. O, romanticamente, niente lo avrebbe più cambiato. Storia dell'episodio nel parco. Di vedere, crede, attraverso il profilo dell'impiegata rossa che legge. Pensa alla parte opposta, a un'abitudine, però senza credere. Potrebbe essere, perché no? Sembra perfino una strada ripetuta, ribattuta, ribaltata, passando però dalla balsa più alta, ardua. Crede di vedere questo sistema intero dall'altra parte, la parte opposta, attraverso la piccola impiegata rossa che legge composta, abito a scacchi e dondola il piede nel vento verde polvere del parco. Pensa, è dicembre, il non arato e una casa aperta avanti ci medicherà, sì, dentro. Pensa ai piccoli flagelli di Migno nel libro del Duca, si forza e le parla. Si sposta. Buongiorno, non è italiana, o finge con energia un'opacità corsivata, pressoché invincibile, o un foglio che non può venire strappato contrariando le fibre. Allora il vetro cerca di opporsi, riflettendo. La pioggia, dopo qualche minuto, li osserva, riprende e smette. Questo è comprensibile, le frasi già granulose vanno dissipate, addirittura diluvia, è disordine, e non si salutano. Ciao panchina, ognuno va per conto suo, spaventato separatamente, questo tra sé e sé, dice. Ma l'argomento poteva anche essere esperire in generale. Se avesse ascoltato, lei, ma chissà, forse ascoltava. E vi leggo gli ultimi due testi. Uno viene da un, in realtà è una rielaborazione di un testo che si trovava in Numeri Primi, un libro che Michele Zaffarano aveva ospitato nella sua collana Chapbook nel 2005 e che io ho rielaborato secondo questi elementi che ho cercato più o meno di toccare, non so con quanto è successo stasera. E si intitola questo brano Corte Nemorense ed è forse uno dei testi dove sono più, non so se felicemente o infelicemente, compresenti l'aspetto seminarrativo e anche con alcuni elementi fonosintattici che casualmente è capitato proprio di osservare soltanto adesso, e invece l'aspetto delle interruzioni, delle microinterruzioni. Corte Nemorense. Nel cortile e vento opposto è esattamente quale cosa? È il principio del mese dopo, luglio. Al principio la porta a petrolio e legno sa cigolare, fa semplice, fa si apre, per fare entrare festa di due occhi, il lutto di una coda di parenti, un dato numero di buste brune di carta che scricchiolano, un'albicocca, oppure solo una sua parte marcia lanciata dal cieco al primo piano. Lo spessore delle lenti, un altro ancora che altera scale di clarino sotto tetti, oltre la svolta, lo strombo dove due spioventi inquadrano Venere per chi sul terrazzo tende i fili che un diverso vento la settimana prima aveva strappato verso l'alto, senza che questo annunci variazione da allora. sul sangue buttato, radendosi, il prete passala, ripassa la picca di allume. Uscendo da una ringhiera rossa a ponte, il topo già salito gronda mezzanino, guadagna altri metri, fa un tuffo tra le foglie, chissà di chi. È femmina e depone i suoi 5-10 sacchetti di fame e siero che digeriscono subito il mondo, lasciano piccoli fori, bruciati, strappi, escrementi, poi la gloria di una carcassa di stoffa e spugnoso, dove tra l'erba alta, lo spigo giallo e i forasacchi, una stadera di sola ruggine apre le braccia qua per dondolare fune assai, assi leve. Avevano cercato facendo forza lì di schiodare un motore. Nel resto del prato dietro, resti di spazio cascano in resti di tempo. Qualcosa di quanto detto invecchia e viene calciato giù dai gradini dai nuovi padroni, che una con i capelli rossi osserva senza ridere, piegando però di lato la testa, come se torcere le cose viste fosse inclinarle verso la trappola, una punta di ferro. L'ultimo testo che vi leggo, invece, è il gioco forza sottoposto alle leggi dell'esecuzione un po' battente, un po' veloce, ed è un testo lunghissimo, che quindi non vi leggerò interamente, che va da pagina 107 a pagina 114, quindi sono 7 pagine, e lavora molto più nella direzione della oggettistica, soltanto che a un certo punto è un testo elencativo e o installativo. Che cos'è un testo installativo? Un testo installativo è un testo che, a cui noi giriamo intorno come una scultura, cioè non è che lo dobbiamo leggere tutto, infatti non lo leggerò tutto, semplicemente capire il meccanismo è già una parte della delibazione del testo, se si può dire così, e quindi è un testo che per certi aspetti ricorda un po' anche i criteri di oggettistica, soltanto che ha una peculiarità: a un certo punto questo testo si ripete, quindi crea un inciampo nella massa, nella quantità, un inciampo non di tipo qualitativo, come può essere una parentesi, un segno di punteggiatura, un'interruzione di carattere sintattico, un salto della puntina sul disco, ma è un'interruzione di carattere macro testuale, ecco, non va più nel micro ma va nel macro. Il titolo, ovviamente scherzoso, è "Affidiamo a questa dispensa il difficile compito di lasciare una traccia". Operammo nell'aspro e teso clima dell'immediato dopoguerra. Il costo delle pere era altissimo. Le chiavi della città furono donate su cuscini di seta a tutti i piloti di motociclismo. Alla cerimonia i sottosegretari piangevano come vitelli per la pioggia di denaro. Erano lacrime di felicità, di conversione, di vittoria, di un difficile connubio, di smalto, di istituti di polizia, di ontologia, di larve del legno, di lavinia, di Teseo, di Ettore, di coccodrillo, di gendarmeria, di decisioni, di soppressione, di concussione, di sparizione, di avvelenamento, di avvilimento, di soverchieria, di pornografia, di Roma, di stuoi assicurati, di speleologi, di cantanti, di sperma, di formiche, di masse di tumulto, di onestà, di budino, di formaggio, di taleggio, di taccheggio, di commozione, di pentimento, di rovesciamento, di esperimento, di memento, di esperanto, del pappeggiamento, di responsabilità, di nuovo di smalto, di istituti di polizia, di larve del legno, di riccio e di ciccio di Franco, di risorgimento, di libagione, di cash, di principi, di pronuncia corretta, di costrizione morale, di costipazione, di fanciullezza, di terrore, di analogia, di matite, di poliuria, di sbadataggine, di temi svolti, di Macerata, di Modena, di Missolungi, di sanfedista, di economia, di attenzione, di combattimento d'acqua, di acqua e sale, di nobiltà, di aggregazione, di abnegazione, di assorbimento, di tuono, di patteggiamento, di concorso, di seconda mano, di menta piperita, di furto coscasso, di blu, di Uzbekistan, di pittura fresca, di scadimento morale, di alucarne, di amministrazione venduta, di abigeato, di scoglionamento, di rapina, di fustigazione pubblica, di scuse, di perdono, di significato oscuro, di apprezzamento, di noce vomica, di Tarzan, di famiglia, di Spadino, di WordPress, di difficoltà di sabotaggio, di civiltà, di funerali, di dispiacere, di olivetti, di pantone, di pacificazione, di liberazione, di martirio, di crostatina, di costatina, di farmacia, di murales, di macerie, di torero, di Gotham City, di re e regina, di soppiatto, di cantastorie, di elettricità, di portinaia, di verziere, di motel, di Mandelbrot, di tossici, di dipendenti, di Numa Pompilio, di Rodigliano Mazziani, e poi tornò una ancora più serena lietezza. Grazie. Se ci sono domande, il mio suggerimento è ci mettiamo in cerchio e ne parliamo, così usciamo dal ruolo autore o la maiuscola con il microfono in mano. Grazie. E grazie a chi ci ha ospitato e a Carlo Sperduti, grande editore di The Click. 12° libro, comprate anche gli altri 11. di che parliamo? I sanguinetti. I sanguinetti. Qualche domanda ce l'avrete? Io sto qua. Se avete... Marco, scusa, non ho capito. A parte... Guarda, ho registrato, dopo ti mando così, okay. Così studi. Può ripetere la domanda. Sai che fai? Lo riascolti a velocità rallentata, così il tormento dura ancora di più. Marco Giovenali scrive cose che non le capisco. Che non le capiscono.